correndo come il bugiardino dei medicinali. Esatto. No, devo dire che io adoro Instagram, come tu sai, soprattutto perché scopri della gente che dici: ma chi è questa qua? Io ho trovato questa Emily Butler, che ho scoperto, lei in realtà si chiama, ha un nome stranissimo, non mi ricordo più, ha una cosa tipo... Ma Emily Butler è già un nome comunque. Emily Butler è già tutto un nome. Tutto finito, esatto. Voglio dire. No, ho scoperto ieri che si chiama Emily Butler, ma sono 3 anni che la seguo su Instagram, e lei fa si chiama Space Garbage. L'immondizia dello spazio. Certo, e lei fa dei balletti, suona la chitarra, eccetera. E poi, appunto, guardando un po' che cosa combina, un giorno ha pubblicato un pezzo e ho scoperto che suona in una band nel New Haven che si chiamano Bitch Appeal. E poi ogni tanto, naturalmente, suona così a... da sola con la chitarra su Instagram. E allora adesso andiamo ad ascoltarci un Bring It Home to Me, che è una canzone classico suonato da lei, cantato davanti a Instagram, e naturalmente lo dedichiamo a Patrick Zaki nella speranza che torni. Speriamo, sì. Torna, fosse per lui sarebbe già tornato. Ah, certo. If you ever change your mind about leaving me behind, oh yeah, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah. I know I left when you left, but now I know I only hurt myself. Oh yeah, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah. I'll give you jewelry and money too. That ain't all I do for you. Oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah. Hai capito? Ho capito. E fra l'altro il pezzo è perfettamente apto a richiamare a casa, appunto, Patrick Zaki. Sì. Si chiama Bring It Back. Esatto, esattamente. Dunque, a proposito di ritornare, i musei hanno riaperto, non so se te l'hanno detto. Sì, cioè, mi era giunta voce, so che tu sei già andato. Io sono andato già lunedì mattina, subito. Andato al Davia Bargellini, come avete sentito la settimana scorsa. Davia Bargellini lo sapevamo già, ma io appunto. So che tu sei stato anche al Mambo. Esatto, esattamente, perché il Mambo ha riaperto le sue porte, non solo, ha anche... tra virgolette inaugurato una mostra, ma prima di tutto ha raccontato in una conferenza stampa che c'è stata martedì scorso che cosa appunto sarebbe stato aperto nel Mambo, e siamo andati ad ascoltare il nostro caro non vecchio perché è giovanissimo Lorenzo Balbi, il direttore, che ci dice, che ci racconta appunto che cosa siamo, che, sei andato cioè, da solo perché cosa, non me l'hai detto, no eravamo in tanti, ma eravamo online, era tutto molto digital, sì. La conferenza era digital, ma adesso la sentiamo. Noi riapriamo oggi in totale sicurezza i nostri spazi, come già avevamo dimostrato di saper fare tra un lockdown e l'altro lo scorso anno. Riapriamo oggi in totale sicurezza, lo facciamo nei giorni feriali, purtroppo non in quelli festivi, però

il rinnovamento di due sezioni della collezione permanente del Mambo. Procediamo quindi con quest'opera di apertura verso l'esterno. Chi conosce gli spazi del Mambo spero sarà anche sorpreso da questa nuova atmosfera che ci sarà, perché abbiamo aperto 8 grandissime vetrate che danno su via Don Minzoni, quindi c'è, diciamo, una nuova anima anche di questo spazio che sempre di più guarda verso l'esterno. In questa grande e lunga galleria, che da una parte porta la facciata originaria del nuovo Forno del Pane e dall'altro quindi affaccia direttamente nella modernità della città, sono state allestite due sezioni della collezione permanente con moltissime opere inedite mai esposte negli spazi del Mambo o comunque nei magazzini da tantissimo tempo. Si tratta di una sezione dedicata all'informale e all'ultimo naturalismo, con una particolare attenzione alla produzione scultorea italiana e anche in ambito bolognese negli anni 50 e 60, e una sezione molto intensa e significativa nelle opere esposte dedicata all'arte verbovisuale, con opere provenienti dagli archivi, dai magazzini del Mambo, con artisti come, per citarne alcuni, Vaccari, Pozzati, Baruchello, Boetti, Tommaso Binga, quindi artisti che opere di artisti che non erano mai state presentate al pubblico. Un'altra novità che inaugura proprio oggi e su cui abbiamo lavorato, e ringrazio tutti i colleghi dell'area per il loro aiuto in questi ultimi mesi, è una app per cellulare che da oggi è disponibile gratuitamente a tutto il pubblico che verrà al Mambo per fruire di contenuti ulteriori nella visita al museo. Ci tengo a specificare che questa app non è solo una app che permette l'estensione sui contenuti delle singole opere, ma è un'app che è stata concepita insieme al Dipartimento Educativo e grazie all'aiuto di Senza Titolo come un possibile nuovo percorso trasversale di attività di mediazione nelle sale del museo. Quindi ci sono 3 tipi di percorsi: un percorso per singoli, un percorso per coppie e un percorso per gruppi, e il pubblico potrà decidere liberamente, scaricando questa app, di prestarsi a una mediazione, a un modo di visitare le collezioni del museo completamente diverso. E questa app, che ci ha portato, ci ha richiesto molti mesi di sviluppo, sarà da oggi disponibile gratuitamente attraverso un QR code per tutti i cellulari, per tutte le persone che verranno al museo. Io non l'ho ancora scaricata, non so tu. No, non neanche io, ma tu farai quella per coppie o per gruppi o per singoli? I'm leaving, I'm moving. È una buona the domanda. Fog is too thick, I can hear them, the bad things singing behind gruppi. The brick. They come for blood and your soul and immortality. Eat your flesh and fuck your guts, immorality. What good are they to anyone? What purpose do they serve? Suck the life out of everything just to self-preserve. The psychopath knows its math, plans every play. Roll you up and smoke you if you get in the way. There's too many vampires. Questa è sempre Emily Butler, però stavolta canta con yes, il Big Bang Theory. Among us, even in the sun. Feed on greed and fear and hate, the fangs deep dug in everyone. Manipulating people like puppets on a string. Toying with emotions like it's a plaything. There's no holy water, crucifix or trinity that can save you from this devil's morbid ministry. So peace them out, fuck this place, you've all lost your heads. Suck dry of humanity, all the blood is blessed. There's too many vampires. Too many vampires. Too many vampires. All over Rome. Make sure you stay awake and always carry a hammer and stay. Be ready with the torch and figli, se abitassimo in New Haven con $330 li potremmo invitare a casa nostra a suonare. Ma pensa, non è molto. Con $330 noi poi siamo alla puntata 348. Gli diamo la mancia. Gli diamo anche la mancia. Yeah. All over Rome. All over Rome. Allora, spiegami, dice troppi vampiri, dove esattamente? All over what? Ma sai che non ho capito neanche io. All over Rome. Ah, Rome. No, Rome. Sì, sì, ah, sì. Non mi sembrava è vero. No, fra l'altro appunto invece l'avevo ascoltato così l'altro giorno. Cosa c'entra Roma? Non lo so, ma perché c'è questo proverbio when in Rome do as the Romans do, che vuol dire quando sei a Roma fai come i romani. Cioè vampirizza tutti, esatto. È questa l'idea che hanno dei romani. Può darsi, non lo so, adesso non lo so. Tenterò un contatto un con romano che ci ascolta, con Emily e magari mi risponde, chi lo sa. Comunque fatto sta che appunto sono giovedì, naturalmente sono tornato al Mambo finalmente in presenza e sono andato a vedere innanzitutto le fantastiche nuove disposizioni di alcune parti che hanno aperto, si vede fuori eccetera, che ha fatto tutto a Luliana Zanetti con non mi ricordo più chi, comunque Lorenzo l'ha detto prima, e poi invece c'è una nuova mostra su Morandi dedicata alle nature morte, curata da Giusy Vecchi, che appunto adesso andiamo ad ascoltare un po' velocemente perché siamo già quasi alla pubblicità delle 7:30. Acci, aspetta. No, per non partire da solo, stupido. Sto mixer qua ogni tanto non mi vuole bene. Cioè Morandi si è dato una disciplina ferrea e all'interno di questa disciplina, di questo metodo compositivo, però il suo gesto artistico è puro atto poetico. Ed è anche un esempio, per usare le parole di Luigi Magnani, un raffinato collezionista e musicologo al quale è intitolato la fondazione che conoscete a Mamiano di Parma. Magnani dice di Morandi è un esempio di spiritualità, un invito a divenire migliori, ed è in effetti la sintesi umana e dell'artista insieme, no? Morandi ha dedicato proprio la sua vita, l'arte e la vocazione di Morandi. Abbiamo l'opportunità in questo secondo focus di invitare anche chi è già stato al museo a conoscere questo artista complesso che ha bisogno, necessita di visite rinnovate e un approfondimento incentrato sulla natura, sugli oggetti di natura, la natura morte di oggetti della maturità, perché proprio in questo periodo, fra il 48 e l'anno della morte, il 64, Morandi realizza più della metà dell'intera produzione artistica. E i motivi sono anche la ricerca sulla variante, tema che c'era già anche in passato, ma che si fa molto più precisa, molto più metodica e insistita. E infatti le tele che abbiamo scelto sono 8 oli e 2 acquerelli, mostrano proprio queste tematiche della serie, della variante, dove un stesso motivo di composizione subisce dei piccoli cambiamenti di oggetto o di tono. Un altro argomento sul quale ci siamo voluti focalizzare è il colore, l'importanza del colore per Morandi, ma tutta la critica è unanime nel sottolineare come parlare di colore in Morandi implica anche parlare della componente della luce. Tutta la materia pittorica di Morandi è intrisa di luce, la sua sostanza è attraversata dalla luce, come dice Cesare Brandi, è un fluido interno al colore. E proprio sempre nella maturità, diciamo, che ormai è considerato il vertice anche artistico di Morandi, c'è una ricchezza di questa pittura tonale, come viene definita, che viene riconosciuta da tutte, da tutti i critici, proprio anche negli Stati Uniti, a New York nel 1957, ha una prima monografica che lo consacra e vince il primo premio per la pittura in Brasile. E dicevo, i critici sottolineano anche questo aspetto, come si arricchisca la sua tavolozza, come diventano più preziose le tinte, e fino a parlare, qualcuno parla di Morandi come l'inventore di mezze tinte o di colori sentimento. Quindi la grandezza di Morandi è anche portare avanti una ricerca formale insieme al colore. E una cosa, che una sorpresa che vorremmo fare ai visitatori, se non ci saranno altri stop, è la possibilità di vedere da vicino con il microscopio digitale degli ingrandimenti della tecnica pittorica, per quindi apprezzarne anche la sostanza, la materia, grazie allo studio che sta portando avanti la restauratrice Maria Lagnani, che da anni si dedica proprio al restauro e alla ricerca. E quindi speriamo di poter organizzare questa cosa, e nello stesso tempo, anche a testimonianza di quanti aspetti di ricerca e di indagini ancora ci siano nell'opera di Morandi, stiamo collaborando con l'Università di Pisa tramite una studentessa, una dottoranda, che farà insieme con l'Istituto Centrale per il Restauro delle analisi chimiche proprio sulla materia pittorica di Morandi. Quindi ci aspettiamo anche delle sorprese in questo senso. Per entrare nel vivo anche dell'esposizione, quindi abbiamo, come diceva Lorenzo Balbi, potuto ricostruire una per intero una composizione. Ecco, in questo lato dove protagonisti delle composizioni sono queste scatole che Morandi ha realizzato da solo, sono piccole, leggerissime scatole di cartone. Sapete che amava anche colorare, dipingere gli oggetti, quindi bottiglie che sono sia esternamente che internamente piene di colore. E questo in particolare, c'è sul vetro una pentola di rame che lui adesso nel tempo è un po' svanito il colore, ma aveva dipinto con un punto di bianco che era funzionale anche al ritmo della composizione. E poi la mitica lattina che abbiamo temporaneamente sottratto al suo luogo ideale, perché di solito, appunto, essendo la protagonista dell'ultimissima composizione, dell'ultimissimo dipinto di Morandi, è sempre nello studio insieme agli altri due oggetti. Spaziale. Sono Francesca Pasini e state ascoltando Coxo Spaziale. E invece sai chi chi ci saluta? Fantastico Oscar Moroni. Il fantastico Tiberio Cattelani, che salutiamo indietro. Tiberio. E giustamente mi ricorda che ieri sei arrivata a quota 20.000 o quasi. No, non sono arrivata a quota 20.000, sono arrivata a quota, adesso lo scriviamo qui, 19.359, che oggi è 19.360. Wow, complimenti. E come si dice, auguri. Ah, grazie. Che auguri. Complimenti. Auguri postumi. Dice anche che siamo due conduttori fantastici e veri conduttori di informazione, il che leggo una leggera nota, sì, un leggero velo di ironia. Dunque, questa però devo raccontarla a proposito dei 19.000 giorni. Oggi un mio studente, non diciamo di quali ordine di scuola è grado, mi ha detto gentili condoglianze. Non so cosa voleva intendere. Forse voleva dire gentiliaco, no, come? Genetliaco, come gentili si dice? Genetliaco, ma appunto. Gli è uscito gentili quando gli altri. No, ma lo capisco, perché quindi anche forse, a me. Detto, forse a 20.000 non ci arriverò. Vabbè, detto questo, sbadadan. L'angolo della menzione. Prima della nostra telefonata di oggi, noi dobbiamo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che mercoledì, che sarebbe poi domani alle 17, c'è una roba online che sarebbe la presentazione di Incursioni, arte contemporanea e tradizione, di Salvatore Settis. La fondazione Gramsci, questo è al Mambo ma appunto è online, dicevo, la fondazione Gramsci Emilia Romagna e il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, invitano alla presentazione del libro di Salvatore Setti, Incursione, Arte Contemporanea e Tradizione, di Feltrinelli 2020, in programma per mercoledì appunto dalle 17 sulla piattaforma Zoom. Introduce Modera Lorenzo Balbi, con dialogano con l'autore Tullio Pericoli, l'artista, e Giovanna Targia del Kunsthistorisches Institut di Zurigen. Per cui, se lo volete, naturalmente da domattina andate su www.coxospaziale.blogspot.com e trovate il link per registrarvi. E mentre invece abbiamo anche una piccola marchetta, posso fare una piccola marchetta? Ma non è proprio una marchetta, ma è un super webinar. Se la presenti così... Direi di no, allora sì. Non la faccio, mentre invece la faccio. Dunque, cosa succede? No, la faccio adesso perché in realtà comincia il 25 febbraio, ma la faccio adesso perché bisogna iscriversi, ed è un webinar che si intitola Elementi sociali di impresa per la cultura, ciclo di 6 incontri con esperti di impresa culturale e cultura imprenditoriale. Quali sono le capacità imprenditoriali e manageriali che saranno richieste agli enti culturali del prossimo futuro? Quali gli strumenti di gestione e comunicazione di cui dotare la propria organizzazione, profit o non profit, per essere competitivi? Su quale giusto grado di contaminazione tra discipline e creatività si gioca il successo di un'impresa? Sono un po' spaventata da, ecco, queste cose che stai invece da queste domande nasce appunto un ciclo di webinar chiamato Elementi sociali di impresa per la cultura, che con l'obiettivo di comprendere il significato e l'agire di un'impresa culturale e o inversamente abbracciare il concetto di cultura imprenditoriale, si rivolge in particolar modo a enti culturali, profit, no profit, eccetera eccetera, che hanno bisogno di comprendere il rapporto che l'impresa, quella tradizionalmente intesa, può e deve legare alla cultura come strumento di bene comune, restituzione, inclusione e anche reputazione. Hai capito? Ogni incontro costa 35 euro, ma il primo è gratuito, e i contatti li trovate naturalmente come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com e così comunque sappi che non mi danno nessun soldo per questa, per questa piccola pubblicità gratuita, diciamo. A gratis, esatto. Che poi non lo so, dietro le quinte ci spiegherai. E no, mi sembra, l'ho fatta perché mi sembrava molto interessante. Non ci credi? No, hai fatto una faccia come dire, non ci credo neanche. Non mi sembrava particolarmente, però voglio dire, non voglio adesso io qua fare perché poi non ho letto chi sono i nomi importanti, perché sarebbe stato lunghissimo, allora ho lasciato. E poi abbiamo invece da fare questa nostra telefonata ricordare un appuntamento che invece apre proprio domani. Esatto, e siccome apre domani dobbiamo prima ascoltare questa cosa qua. Ah, perfetto. Intanto che tu telefoni. Ma io mando grazie. Perché questo è un bel magnetofono. Mi sento subito libero, indipendente. È tutta un'altra cosa, insomma. Ha capito? Funziona bene. Pronto? Che bello. Sì, no, funziona. Poi funziona, vedi funziona. Che le parole, per fortuna, hanno un consenso qui. Pronto. E se io dico ho visto, vuol dire veramente ho visto. Ma non sentite, ho visto. Che chiarezza, che immediatezza. Fratelli d'Italia, ho visto. Ho visto la pappeciccia della politica coi fascisti. Io ho visto la collusione e dietro loro, in filigrana come nei biglietti da 1000, c'erano degli altri. Un centinaio almeno li ho riconosciuti, gente che va su e giù per delle scalinate monumentali e non inciampa mai. Io inciamperei, per questo non posso fare neanche il sindaco. Mannaggia, sta tosse. Adesso cercheranno di screditare quello che dico, perché dice ha la tosse, ma io vado in giro per le strade con una voce medioevale e dico ho visto. Si capisce che provocherò dei casini nella circolazione, chissà che intasamenti, furgoni di tutte le specie, furgoni di ostie non ancora consacrate intaseranno il traffico insieme alle camionette della celere, però si guarderanno bene dall'arrestarmi. secondo me non mi arrestano. Vogliamo farne un martire, dicono loro, capisci? Vogliamo farne un martire? No. E allora loro cosa fanno? Magari spargano la notizia che non mi lau, che il turpiloquio dimostra proprio scientificamente che l'arteriosclè è in movimento. Bauscia, magari diranno Bauscia, è vero? E un agente travestito da sindacato, scrittori, lo fanno a girare in Piazza del Popolo, lì da Rosati, da Canovo, avete capito, nei clan, a spiegare che se sapessi sbalzare un personaggio a tutto tondo non ricorrerei all'autobiografia, a questi mezzi, insomma, innaturali, dicono, eh? È vero, io tengo un comizio dove dichiaro che neanche per il cazzo mi metto lì a tirare fuori uno che si chiami Grandozzi. Loro lo vorrebbero perché ottengono che io mi distraggo. Mi distraggo quando il tempo stringe, una pallottola in un secondo, dobbiamo riconoscere, fa 1000 metri e anche di più. Hai capito? Ecco qua, e noi adesso siamo in diretta con una persona che ci spiegherà cos'è che avete cosa appena ascoltato. Infatti. Pronto? Siamo in diretta, sì. Siamo in diretta. Direttissima. Esatto, siamo in direttissima. Noi siamo Chiara Verde, Stefano W. Pasquini e tu sei Marcello Tedesco e Silla Guerrini, giusto? Silla Guerrini che ci ascolta qui, sì, certamente. Avete ascoltato l'audio di un contenuto che esponiamo al museo, che è tratto da non libro, che è appunto è un progetto editoriale di Zavattini degli anni 70, dove viene per certi versi sintetizzata, come dire, il suo atteggiamento, la sua postura rispetto all'arte, agli artisti e a tutte le relazioni che questi stavano anche con le istituzioni, con il potere, eccetera, eccetera. Quindi lo definiresti un piccolo intervento di critica istituzionale ante litteram? Diciamo anche qual è il museo, perché non c'era stato tempo di annunciarlo. Il museo, naturalmente, è il Museo Temporaneo Navile. Questo, un po' questa entità un po' strana, un po' anomala rispetto al clima bolognese e forse anche al clima italiano. E dunque, come dicevi tu Chiara, ecco, io non la porrei in termini dialettici, cioè nel senso che Zavattini di solito non si rivolge mai a un interlocutore, ma semplicemente o in maniera molto complessa invita più che altro alla capacità di concepire dei nuovi pensieri, delle nuove posture, che è quello appunto che penso sia piuttosto urgente oggi. Ah, certamente, questo è un, diciamo, sicuramente un tema importante oggi, forse come se un sempre verdissimo, ma di questo abbiamo sentito questo piccolo saggio, ma al museo invece che cosa sarà possibile vedere? Dunque, naturalmente noi esponiamo, diciamo, l'1% della collezione di Massimo Soprani, che è stato il segretario di Zavattini per 30 anni allo Zara. Abbiamo, come dire, questo progetto da tantissimo tempo, abbiamo cercato anche di realizzarlo nella sua complessità, questo non è stato possibile per il momento. Tuttavia, come nella politica dell'MTN, abbiamo pensato che sia piuttosto urgente cercare di far conoscere questa figura oggi, che è quella di Cesare Zavattini, una figura molto sfaccettata, poliedrica, per certi versi anche sfuggente, anche un po' sfacciata, ha detto cazzo prima, cosa che Pasquini non dice mai, non no vabbè, per noi è molto voglio dire, lui diceva queste cose in anni dove era rischiava tabù, la denuncia, esatto. Per certo, non so. Lui ha iniziato, ad esempio, la parte legata al libro, di non libro, che si compone di un testo che assomiglia già, ad esempio, alla poesia visiva e poi c'era il contenuto del 45 giri che abbiamo in mostra. Abbiamo in mostra anche naturalmente anche il libro originale degli anni 70, parliamo forse del 71, scusate sono un po' stanco adesso, ma e quindi le date non me le ricordo, comunque 71 mi pare il non libro o 70, e il non libro inizia con figa. Quindi e finisce naturalmente, con naturalmente certo c'è questa postura, c'è questa dimensione molto anticonformista, però ci tengo a dire che non è un anticonformismo che oggi chiameremo radical chic, così tanto per scandalizzare gli addetti ai lavori e i non addetti ai lavori, è un anticonformismo che allude a questa urgenza di iniziare, soprattutto gli artisti, ma anche la società civile, ad elaborare delle nuove idee, un nuovo pensiero. Per sintetizzare, come dire, la poetica di Zavattini, sia appunto in tutte le sue sfaccettature, lui arriva ad un certo punto a interiorizzare, a capire con drammatica lucidità che i problemi degli uomini e della società derivano dal fatto che gli uomini non pensano, cioè non hanno attività di pensiero, e questo purtroppo è sostenuto anche da una certa attività artistica anomala, un'attività artistica, come avete sentito anche nell'audio che avete mandato in onda, di connivenza a certe strutture cristallizzate, strutture che lui all'epoca definiva fasciste, ma il fascismo, c'è un fascismo storico e un fascismo anche, come dire, più latente, che semplicemente significa mantenere e sostenere delle strutture obsolete. Questo è il punto. E Zavattini oggi, in questi anni che stiamo vivendo, arriva a noi dagli anni, appunto, noi esponiamo più che altro delle opere che vanno dal 70 all'80, arriva a noi da quegli anni per ricordarci questa cosa, soprattutto proprio come nell'idea di artisti che operano o di intellettuali che operano, non sempre nel solco della libertà e non sempre nel solco dell'indipendenza. Allora invitiamo assolutamente ad andare a vedere questa, diciamo, questa mostra, non mostra, mi sembra di avere capito noi, che noi si l'abbiamo chiamata assolutamente nel solco zavattiniano in cui siamo immersi ormai fino al midollo. l'abbiamo definita non mostra perché il focus del progetto non è finalizzato appunto alle opere di Zavattini, anche se ci sono delle opere, tra cui opere anche molto belle. Tuttavia non abbiamo focalizzato l'attenzione sulle opere, perché le opere a volte sono una distrazione rispetto a un nucleo di pensiero che invece è predominante in questa mostra. Questa mostra, per sintetizzarvi, è come una sorta di discontinuità che abbiamo creato attraverso le opere del maestro rispetto a tutto quello che esiste, sia fuori come ambito politico, giuridico, che come ambito artistico. E quindi vedremo un po' anche, diciamo, uno spaccato di un mondo zavattiniano possibile, diciamo così. E quando si potrà vedere? Quindi dal 9 febbraio al 9 marzo, dico bene? Al 9 marzo, assolutamente. Come funziona l'ingresso? Naturalmente contingentato, diciamo, abbiamo stabilito 5 persone alla volta, siccome questa è una mostra da vivere, nel senso che sarà anche possibile, cosa che di solito nei musei non è possibile, sfogliare le opere autografe di Zavattini. Abbiamo ricreato lo studio di Zavattini, quindi c'è anche una piccola biblioteca con le opere, i libri d'epoca, quindi le prime edizioni, alcune delle quali sono addirittura autografate, alcune delle quali addirittura sono disegnate. Bellissimo. È una mostra da vivere, sia appunto in questa evocazione quasi magica della figura di Zavattini, quindi c'è questa voce molto potente che può essere sentita nell'audio, che è un 45 giri, sia nella sua ultima opera manifesto, che è La Verità, questo film che ha fatto come regista, sceneggiatore e attore, quindi anche in questo caso c'è una presenza molto fisica di Zavattini. E un'ultima parola, perché Pasquini qui mi sta facendo cenni che siamo fuori tempissimo, Massimo. Mi sto dilungando. Niente, io vi invito, come dire, invito tutti a fare questa esperienza di discontinuità. Perfetto, allora noi caldeggiamo la prenotazione e ricorderemo naturalmente tutti gli estremi per poter visitare la mostra su www.coxospaziale.blogspot.com. Assolutamente. Grazie Marcello della tua presenza lampo e ci vediamo al Museo Temporaneo Naville. A presto. Oh, my lover doesn't know me, and the way he's loved by me. He knew it's north when we met, but never met my continent. Come to my garden of senses, be one with what you fear and what you miss. See what a joyful thing it is to be at the mercy of your feeling. I told him, baby, hai capito Zavattini? Ho capito Zavattini, non sento niente perché mi sono scuffiata. Ah, ok. Però mi sono ricuffiata. Ti sei ricuffiata. Dunque abbiamo, cioè, c'è un sacco di roba da fare questa settimana. Ma sì, c'è un sacco di roba da fare, poi ce ne sono anche altre di cose che non abbiamo ricordato. Sì, ci infatti sarebbe un appuntamento anche venerdì 12 online con l'associazione Rad Art, che è un'associazione italo-canadese. Okay. Sì, no, nel senso che intreccia scambi culturali con vari luoghi e anche di minoranze linguistiche, diciamo, all'interno di paesi che hanno una maggioranza linguistica. Hai capito. Magari ricorderemo anche questa sempre su www.coxospaziale.blogspot.com. Vedi, l'hai imparato benissimo, altro che Fedra, che salutiamo Fedra, chissà quando tornerà, perché invece la settimana prossima praticamente faccio il coxo tutto da solo, con tutto nudo, come diresti tu. Ecco, no, meglio non dire tutto nudo, perché allora quando si tratta degli altri lo puoi dire, no, poi dopo che, invece è che siccome ho una giovane ospite, forse allora dopo non viene più. Sì, no, è il caso forse di, guarda, te la faccio anche sentire forse, aspetta, vediamo se ci riesco con questo fantastico, no, forse no. Allora, non so se ti ricordi, però più o meno un mese fa mi ha scritto un ragazzo di nome Stefano dicendomi: guarda Benny, ho una trasmissione in radio, vuoi venire a fare un'intervista da me? E gli avevo risposto: certo Stefano, però soltanto se posso portare qualcuno dei ragazzi di filosofia. E lui mi aveva detto di sì, e infatti giovedì faremo un'intervista insieme, io e questo ragazzo che vuoi. Ah, però così facendo. E adesso hai mi capito, ha scritto una ragazza di nome Sonia dicendomi: Benny, non è che vuoi fare un'intervista per la mia radio? Hai capito. Quindi, hai capito, sta Benny qua, è piena di gente che la vuole intervistare. Però mi sono così facendo, ho svelato che la puntata sarà registrata giovedì e poi la metteremo in radio lunedì prossimo. Sì, ma magari si sarebbe capito anche da altri dettagli, perché mi sembra di aver capito che mi contatterai per un salutino e io naturalmente spoilererò la probabilmente data. Sarai in mezzo ai monti di nuovo. Eccetera, eccetera. Non credo, giovedì no. Secondo me sarò in studio a trafficare. Okay. Ma niente, quindi insomma tu hai proposto un po' come se si trattasse di andare a vedere la tua collezione di farfalle, di venire qua in radio. Esatto. Vabbè, peccato che radio. Cioè, sai com'è, c'è una trasmissione radio. Peccato che è tutto online, per cui insomma però giustamente lei avendo appunto paura di me anche online ha invitato 340 persone giustamente. Esatto. Non si fa trovare impreparata. Esatto. Okay. Lei è Benedetta Santini di Filosofia e Caffeina, che ha tipo 90.000 follower su TikTok. Ah, 90.000 follower? Sì, però. Infatti volevo fare il colpaccio e dire: ah, io sono stato quello che l'ha intervistata per primo, mentre invece la settimana scorsa è andata su Rai Radio 1. E Noel Gazzano quanti follower ha? Ma non lo so, ne avrà 1500, forse 3000, dai. Siamo in un altro ordine. Ah no, non è vero, crisi nera forse, crisi nera, effettivamente. Secondo me... Però non credo che arrivi a 90.000, chi lo sa. Adesso no, Noel, che salutiamo, glielo chiediamo. E la Ferragni? La Ferragni quanto la Ferragni sarà milioni. Ah, vabbè, non lo so, perché io non la seguo la Ferragni, la segue Yumi, che saluto. Ciao Yumi. Ecco, ciao Yumi, ciao Tiberio. E questo era Coxo Spaziale, e è stato bello come al solito. E io ero Chiara Verde, sempre, perché siamo in febbraio, giusto? Esatto, per tutto febbraio mettiamo così, poi passa il diserbante e via. E via, e dopo via. Che a marzo che cosa sarai? Io sarò sempre Stefano W. Pasquini. Ah giusto, e io che cosa sarò? E tu sarai Chiara Azzurro. Che aveva con questo fatto basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E questo era Coxo Spaziale, nel caso ve lo foste dimenticati. Mi ero scuffiata di nuovo, ero già andata a casa e avevo già il pigiamino. Molto bene, ciao, buona serata. Buona serata a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo. Cioè giovedì. Sound, the name it styly. Tipsy tricks, quants are rising. That's it, me a rolling thunder. No matter where you're from, me a sharp like razor. Me say no matter where you ponder, how you a wonder. Me still a roll like thunder. Me say me sharp like razor. Dance I turn. So me think I burn sun. Stepping on the dancer, you can't get a rest. The words from my mouth, I go get you merciless. Everybody know they can't get me a test. Original trickster, dancer, dance.